I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Mercoledì prossimo entrano in vigore le nuove regole sui furbetti del cartellino, vale a dire i dipendenti assenteisti delle pubbliche amministrazioni. In base al nuovo meccanismo, questa è la novità, si dovrebbe arrivare all'effettivo licenziamento del dipendente assenteista in poco più di un mese. Per essere precisi, basteranno 48 ore per ottenere la sospensione e altri 30 giorni per concludere il procedimento che porta all'effettivo licenziamento. Visto il ritmo con cui le cronache riferiscono di questi abusi, non ci vorrà certo molto tempo per capire se il calendario sprint e le sanzioni che sono state introdotte anche a carico dei dirigenti saranno in grado di contrastare questi abusi. Le ultime notizie risalgono peraltro a giovedì scorso. A Belluno sono finiti sotto inchiesta 12 forestali e a Oppido Mamertina, in provincia di Reggio Calabria, sono indagati 24 dipendenti del comune che lasciavano l'ufficio dopo aver timbrato il cartellino. È vero che l'assenteismo non è in tutti gli uffici, ma è altrettanto vero che ha raggiunto dimensioni che non sembrano fisiologiche, come forse non è fisiologico che in un'organizzazione fatta di 3 milioni di persone i licenziamenti disciplinari per assenze ingiustificate siano solo meno di 100 all'anno. Ora arrivano nuove regole rafforzate con l'aggiunta delle sanzioni introdotte per responsabilizzare i dirigenti e tutto ciò può davvero mettere il freno a un fenomeno che colpisce al cuore la credibilità della pubblica amministrazione. Una pubblica amministrazione fatta in larghissima parte di lavoratori efficienti e onesti. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Non sono certo brillanti i dati che l'Istat ha diffuso oggi sulla produzione industriale. A maggio infatti si è registrata una diminuzione dello 0,6% sia su base mensile sia su base annua. È il primo calo tendenziale del 2016 e arriva come una doccia fredda dopo il recupero registrato nel mese di aprile. È il peggior calo congiunturale dallo scorso febbraio, quando si segnalava un meno 0,8% rispetto a gennaio, ma nella media dei primi 5 mesi dell'anno la variazione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente resta comunque positiva con un più 1,5%. Auto, computer, prodotti elettronici e farmaceutici sono nella parte alta della classifica, mentre è in caduta l'industria estrattiva, dove pesa il blocco dell'attività in Basilicata in seguito alle inchieste giudiziarie, e quella del tessile, che in un anno ha perso il 6,5%. L'indice destagionalizzato mensile presenta variazioni congiunturali negative in tutti i comparti: diminuiscono i beni strumentali, meno 1,8%, i beni intermedi, meno 0,9%, l'energia, meno 0,6%, e anche i beni di consumo, meno 0,3%. Ci si può appunto consolare con le variazioni medie dei primi 5 mesi, che registrano comunque un dato positivo con una crescita dell'1,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In generale bisogna prendere atto che la ripresa economica non configura ancora una vera e propria crescita, uno slancio, anche perché se si ha come obiettivo un rilancio del PIL dell'1,5%, la produzione deve registrare performance almeno triple, e purtroppo non è così. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e RDS.it.